Incontri di Gianfranco Fabi. Con questa marcia molto nota di Edward Elgar cominciamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanto ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Roberto Bertinetti. Buongiorno. Roberto Bertinetti, giornalista, docente di letteratura inglese all'Università di Trieste, appassionato conoscitore della realtà britannica. Elgar, perché questa marcia? Questo motivo molto noto, che è un motivo appunto che ci ricorda un po' le praterie, non so se può rendere l'idea, e queste truppe a cavallo, questi cavalieri che magari vanno a fare la caccia alla volpe nelle campagne inglesi, questa immagine un po' stereotipata dell'Inghilterra. Beh, questo innanzitutto è stato composto poco più di un secolo fa, siamo all'inizio del Novecento, quando Elgar compone le sue quattro marce più famose. Il perché, la motivazione della scelta è che è una specie di non ufficiale inno nazionale britannico. Sì, infatti. E sì. Quindi è molto ascoltato, è molto popolare, è un po' retorico. Siamo all'epoca in cui la regina Vittoria era appena defunta, è stata sostituita, ma insomma i britannici avevano ancora l'impero più grande e più potente del mondo. Quindi... Ed è, per entrare in argomento, è anche l'epoca di Virginia Woolf. Sì, la signora Woolf era ancora una signorina, Stephen, nel senso che non era ancora coniugata Woolf. Virginia Woolf nasce nel 1882, è la figlia di Leslie Stephen, uno dei più grandi critici del tardo vittorianesimo. In questo periodo, cioè all'inizio del Novecento, quando Elgar compone queste marce, lei aveva già fatto due cose che segneranno il suo futuro, la prima in negativo e l'altra in positivo. Quella in negativo è una crisi, la prima delle tante che attraverseranno la sua vita, nel 1895, nel momento in cui muore sua madre. Ci sarà un primo tentativo di suicidio, una prima crisi depressiva. Quella positiva, che segnerà tutta la sua vita, è di qualche anno più tarda, cioè alla fine dell'Ottocento, quando lei, 15enne, entra insieme alla sorella maggiore Vanessa nello studio di suo papà, un'immensa libreria, e le due sorelle vanno a dire al padre che cosa vogliono fare da grandi. E allora Virginia dice a suo papà: io ho deciso di fare la scrittrice. Ecco, poi parliamo di Virginia Woolf, perché Roberto Bertinetti ha curato un libro appena pubblicato nella collana della Bull, della Rizzoli, sui consigli a un aspirante scrittore, appunto di Virginia Woolf, che raccoglie molte pagine di diario di questa scrittrice inglese, che è conosciuta in Italia forse come nome, non per Virginia Woolf, per un film con Richard Burton e Elizabeth Taylor, che non ha niente a che fare con Virginia Woolf, perché chi ha paura di Virginia Woolf non c'entra nulla con Virginia Woolf. No, tra l'altro è una commedia di un autore americano, quindi... Ecco, che prende questo titolo per l'assonanza tra Woolf e il lupo, esatto. Chi ha paura del lupo cattivo, esatto. Ma appunto non c'entra niente con questo. Ecco, questa ambiguità ogni tanto emerge, qualcuno parla di Virginia Woolf pensando che il film parli della scrittrice inglese. Sì, oppure noi ne abbiamo un'altra immagine stereotipata dovuta ad un altro libro e ad un altro film, sempre di autori americani. Il libro si chiama Le ore, The Hours, e il film ha lo stesso titolo ed è interpretato da Nicole Kidman, che venne imbruttita per l'occasione di non moltissimi anni fa. Le messe messo un naso posticcio, finto. In realtà Virginia Woolf era una donna molto bella, tra l'altro per parte di madre era pronipote di una famosissima pioniera della fotografia, Margaret Cameron, del periodo vittoriano, e di alcune delle migliori, più belle modelle dei pittori preraffaelliti, quindi insomma era tutto fuorché brutta. E soprattutto nel film interpretato da Nicole Kidman, Virginia Woolf è una donna tristissima che piange sempre. In realtà, come si vede dalle pagine che abbiamo proposto per la prima volta in italiano, al di là di questi episodi depressivi certamente tragici che la portarono poi al suicidio nella primavera del 1941, Virginia Woolf era una donna allegrissima, una donna piena di vita. Tra l'altro fece insieme ai suoi amici un famosissimo scherzo: si fecero accreditare presso il Ministero degli Esteri come ambasciatori di un fantomatico paesello africano, colonia, eccetera, eccetera, con tutti i documenti firmati, un gruppo di ragazzi e ragazze, e ricevettero l'autorizzazione ad andare a visitare il più grande incrociatore militare che era ormeggiato allo... una goliardata, come sì, si una goliardata dire. Che finì sui giornali con dei risultati insomma un po' così, insomma, certo. Comunque per dare l'idea del tipo, ecco, di donna per chi era. Volesse appunto avere un'idea oltre a queste pagine di diario, ricordo, consiglio un aspirante scrittore nella Corona della Bur, ecco, un romanzo, se uno volesse al tempo di leggere un romanzo di Virginia Woolf, uno scritto di Virginia Woolf, qual è quello che può dare più l'idea di questa scrittrice che ha cambiato un po' anche il modo di scrivere, il modo di presentarsi, è stata un po' una delle pietre miliari, possiamo dire, della letteratura inglese. Sì, non soltanto inglese. Un romanzo è sicuramente Mrs. Dalloway, 1925, oppure, se vogliamo consigliarne due, quello immediatamente successivo, To the Lighthouse, variamente tradotto come Al faro o Gita al faro in italiano. Un saggio che ha cambiato, che qui è riportato, almeno in parte, che ha cambiato anche qui molto, è Una stanza tutta per sé, che è il libro, cioè prima la conferenza, poi trasformato in un saggio, in cui Virginia Woolf esamina tutto il ruolo delle donne nella società, non solo inglese, a partire dal periodo elisabettiano, ponendosi la famosa domanda: ma se fosse esistita una sorella di William Shakespeare, avrebbe potuto diventare così popolare e famosa? Poi riprende, diciamo, da Jane Austen, quindi siamo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, e rivendica alle donne, con una posizione che è culturale, non è politica femminista, questo magari ci torneremo, ma è stata molto mal letta da questo punto di vista, soprattutto in Italia, per dire che una donna, per poter avere un'autonomia e scrivere, soprattutto una donna che fa attività intellettuale, deve avere due cose: una stanza tutta per sé, quindi non deve essere al servizio del resto della casa, e deve avere un reddito minimo, lei dice 500 sterline all'anno. Per questo, appunto, per poter scrivere. Però ecco, andiamo un po' sulla sua età inglese, non solo la sua età inglese di fine 800, di inizio 900, ma la sua età inglese nelle sue trasformazioni nella società attuale. C'è stata un'altra donna che ha segnato la società, la politica inglese, che è stata Margaret Thatcher. Sì. Che cosa può unire Virginia Woolf a Margaret Thatcher, e andando appunto sull'attualità, com'è la condizione femminile adesso in Gran Bretagna? Beh, credo che da un punto di vista politico ben poco potrebbe unire Virginia Woolf e Margaret Thatcher, anche perché la Woolf, pur non essendo impegnata direttamente in politica, aveva un marito, cioè Leonard Woolf, che era un esponente della cultura laburista dell'epoca. Però c'è una cosa, secondo me, che si percepisce a pelle, che potrebbe unire sicuramente il carattere di Virginia Woolf con quello di Margaret Thatcher, che è la fortissima determinazione, la capacità di credere nelle proprie possibilità, nella propria intelligenza, e arrivare fino in fondo senza farsi intimorire dagli ostacoli che ci possono essere, che possono aver incontrato sulla loro strada. Per quanto riguarda la questione della seconda parte della domanda, cioè le donne nella società inglese dell'epoca, credo che la società inglese, per mille ragioni, probabilmente perché è stata la prima ad affrontare determinati tipi di problemi, eccetera, sia storicamente parlando, sia quella in cui in Europa, direi, la condizione delle donne, a parte la mitica condizione, non so, dell'Islanda o di altre aree scandinave, diciamo di quella che noi potremmo chiamare l'Europa continentale, per gli inglesi una bestemmia naturalmente, perché sanno di mezzo la manica, quindi qualcosa che divide dal resto dell'Europa. Comunque, nell'Europa continentale probabilmente è una delle migliori, almeno della parte, diciamo, della popolazione con un reddito medio alto. Poi dopo potremmo fare tutto il discorso della parte più bassa, o delle lavoratrici immigrate, ma insomma... Comunque è una società che è cambiata molto negli ultimi decenni, che è diventata una società multietnica. Possiamo ancora parlare di una società inglese, di una realtà inglese, oppure la realtà inglese è ferma nelle sue tradizioni, nella caccia alla volpi, piuttosto che nei cortei che accompagnano la regina, ma poi il resto della società è qualcosa che si è evoluto a modo suo? Sì, io direi che c'è una parte minoritaria della popolazione inglese o britannica in generale, del resto questo appartiene anche per esempio alla tradizione scozzese o quella gallese, che è rimasta un po' ancorata al passato. Può essere la parte o più anziana della popolazione, oppure la parte economicamente più ricca, insomma. Non dimentichiamoci che ci sono i titoli nobiliari e alcuni degli uomini più ricchi o donne più ricche d'Inghilterra sono proprietari immobiliari con patrimoni di centinaia e centinaia di milioni di sterline. Quindi esiste un'Inghilterra che ancora va a fare la caccia alla volpe, rispetta un determinato tipo di etichetta, frequenta determinati club, soprattutto londinesi, anche quelli dove le donne non sono ammesse. Ci fu a questo proposito il famoso caso del club Tory conservatore, dove il leader del partito conservatore automaticamente diventava membro del club. Quando nel 1975 Margaret Thatcher viene eletta membro del partito conservatore, dicono: porca miseria, una donna, adesso cosa facciamo? Allora mettono ai voti a scrutinio segreto tra i membri del club questa cosa e arrivano al seguente compromesso. Margaret Thatcher automaticamente viene ammessa al club in quanto leader del partito e magari primo ministro, ma la sua appartenenza al club nel momento in cui perde la carica decade. Comunque, al di là di questa Inghilterra conservatrice, che comunque esiste, che ha anche tratti un po' xenofobi per certi aspetti, ma non è certo l'unica società in Europa, l'altra è una società apertamente, compiutamente multietnica, con tutti i problemi che naturalmente questo comporta. Però anche qui c'è una ragione storica, non soltanto il fatto del passato coloniale degli inglesi, ma anche il fatto, ma soprattutto il fatto che a partire dall'immediato dopoguerra si sono misurati con i problemi della società multietnica, cioè il famoso primo viaggio del Empire Windrush, la nave che porta nel 1948 quasi 500 lavoratori dai Caraibi verso l'Inghilterra, apre ad una, è il primo seme di una società che oggi, nel caso di Londra, megalopoli di 8 milioni, certo, 10 milioni di abitanti, ha 300 lingue diverse. Ecco, di Londra, del Londra di oggi, del Londra, della società inglese di oggi, parleremo nella seconda parte del programma con Roberto Bertinetti. Incontri. Bentornati al nostro appuntamento, al nostro incontro con Roberto Bertinetti, giornalista, docente di letteratura inglese all'Università di Trieste, collaboratore del Sole 24 Ore, curatore del libro Consiglia un aspirante scrittore di Virginia Woolf. Abbiamo parlato nella prima parte di Virginia Woolf, questa scrittrice inglese, ma anche della società inglese, della realtà della Gran Bretagna. Abbiamo vissuto negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, l'avventura delle Olimpiadi, che hanno portato alla ribalta una Gran Bretagna molto efficiente. Forse qualcuno non si aspettava una tanta efficienza, Roberto Bertinetti, da parte degli inglesi. Ma chi pensava che gli inglesi non potessero dimostrare questa efficienza, secondo me non li conosce o si sbagliava, nel senso che, vabbè, era la terza Olimpiade ospitata in Inghilterra. Gli inglesi e i londinesi in particolare si sono fatti una punta d'orgoglio, tra l'altro che nella circostanza l'assegnazione della sede olimpica a Londra, con un contrasto piuttosto forte, perché in quell'anno correvano Parigi, correva Mosca, correva New York anche e correva Madrid, se non ricordo male, venne fatta, l'annuncio arriva proprio il giorno prima degli tragici attentati della metropolitana di Londra all'inizio di luglio del 2005. Quindi anche questo legame tra le due cose ha fatto sì che gli inglesi si impegnassero in maniera particolare, i londinesi. Mi piace sottolineare due cose che forse in Italia non si sono realizzate in passato. Penso ad esempio ai campionati di Italia 90, no? Certo. Quando insomma si fecero certe cose. Allora, gli inglesi hanno fatto due cose fondamentalmente. Innanzitutto hanno potenziato, come si usa dire oggi con un neologismo orribile, implementato, cioè potenziato. Ma forse un neologismo un po' inglese, che viene dalla nostra abitudine di tradurre male dei termini inglesi. Gli inglesi hanno una fantasia nell'inventare le neologismi che poi tramutano in qualunque cosa. In realtà il significato originale di questo verbo è promulgare nel senso giuridico del termine, per cui poi è stato usato, lo usava molto Tony Blair durante il suo mandato, quindi è diventato di moda e poi, non sapendo come tradurre, noi in Italia abbiamo tenuto implementato. Secondo me, se uno esce in strada e chiede cosa vuol dire implementato a qualcuno, la maggior parte delle persone non lo sa assolutamente. Comunque torniamo alle Olimpiadi. Allora, hanno aumentato fortemente, cioè hanno fatto un progetto di finanziamento di programmi per l'educazione allo sport nelle scuole e di investimento sugli atleti. Questo gli ha permesso, tra l'altro, di, se non sbaglio, nel medagliere sono arrivati terzi. Sì, sì, dopo Stati Uniti e Cina. Esatto, sì. Un numero enorme. Cioè hanno lavorato 7 anni per diffondere la pratica sportiva. E questo è un evento meritevole, al di là del risultato che si ottiene in medaglie. Comunque gli inglesi storicamente hanno sempre avuto una grande e lunga tradizione in ambito sportivo, almeno in alcune discipline. Del resto, per il comitato olimpico britannico era un celebre mezzofondista, Coe, che vinse titoli a ripetizione molti anni fa. La seconda cosa, altrettanto positiva, quello che noi non, a Italia 90 non abbiamo fatto, hanno scelto una zona di Londra, dell'estrema periferia, della Lea Valley, tutta la zona del, diciamo, a nord, nord-est dell'East End, cioè una zona povera. Non hanno realizzato impianti faraonici, hanno puntato sulla qualificazione urbana di quell'area, per cui tutto il villaggio olimpico che ha ospitato gli atleti nel corso della manifestazione è stato, diciamo così, riconsegnato al termine e in questo momento viene abitato dalla popolazione locale, che tra l'altro ha approvato questa operazione con un referendum a larghissima maggioranza. Molti degli impianti sono impianti che sono impianti cosiddetti smontabili. Qualcuno ironizzando ha detto modello IKEA. Yeah. Va bene, allora il modello IKEA nell'ambito degli impianti sportivi prevede che questi impianti che erano costruiti in quella zona possano essere o siano già stati smontati per essere trasferiti in altre zone del Regno Unito dove c'era bisogno, non so, di uno stadio di un certo tipo piuttosto che di un'altra cosa. Insomma, noi abbiamo fatto le cattedrali nel deserto con Italia 90, tutto sommato mi sembra che il modello inglese è... Del resto sono tra i pochi che non hanno, dalle ultime Olimpiadi, nel corso delle ultime Olimpiadi, non hanno perso troppi soldi. Qualcosa l'hanno perso, però poi non si può misurare anche la ricaduta economica di un evento di questo tipo. Qualcuno dice che un vincitore delle Olimpiadi è anche il sindaco di Londra, Boris Johnson, che ha avuto una parte molto importante nel tipo di organizzazione, nel condurre questo evento e nel portarlo in porto. E qualcuno lo vede anche come prossimo primo ministro. Ma allora dividiamo in due parti. Allora, per quanto riguarda la prima parte, cioè come un vincitore di una medaglia su Boris Johnson, io su questo sono tranquillamente d'accordo. Sulla previsione di Boris Johnson come futuro primo ministro, mi sento di dissentire dalla previsione per due ragioni. Boris Johnson ha un tipo di passato anche da un punto di vista privato, con scandali e scandaletti vari che insomma non lo rendono... Beh, nessuno è senza peccato in quel mondo della politica, quindi... Sì, ma nel mondo della politica inglese è un po' diverso, diciamo da certi mondi delle politiche più mediterranee, mettiamo così. Questo è così. Importante sottolinearlo. Ecco. Quindi già questo tipo di problemi gli renderebbero... Ha un carattere un po' difficile, l'hanno avevano soprannominato Boris il pagliaccio, perché insomma è un po' guascone. Insomma, in Inghilterra certe cose, certe etichette ci tengono abbastanza. Ma c'è una ragione, diciamo, più seria, chiamiamola così, sul fatto che non possa essere il futuro primo ministro. Perché io credo che molto difficilmente il prossimo primo ministro britannico, quando si rivoterà, adesso siamo a metà mandato di David Cameron, sarà un conservatore. Cioè Cameron, fino adesso, vabbè, chi può dire cosa succederà nei prossimi due anni e mezzo o quando Cameron deciderà di chiamare le elezioni. Non dimentichiamoci che in Gran Bretagna c'è un sistema costituzionale per cui una legislatura può durare un massimo di 5 anni, ma un primo ministro può chiedere alla regina di sciogliere il Parlamento e di andare a votare nel momento in cui politicamente lo ritiene. È capitato spesso negli ultimi tempi. Ma assolutamente. Un caso, ad esempio, clamoroso dal punto di vista è 1900, per citare un personaggio di cui abbiamo parlato poco fa, 1982, guerra delle Falkland, vinta dagli inglesi. Margaret Thatcher pochi mesi dopo naturalmente chiede le elezioni e le vince trionfalmente, ma anche Tony Blair alla fine del suo primo mandato non è durato 5 anni, ma è durato di meno, è durato 4. Quindi quando invece sono in difficoltà i leader tendono ad arrivare fino alla fine. Infatti l'ultimo mandato, diciamo, laburista, quello che aveva visto il passaggio di consegne Blair Gordon Brown, è proprio stato arrivato fino all'ultimo giorno utile. Allora, i primi 2 anni e mezzo comunque di David Cameron, della sua idea di Big Society, come l'aveva chiamata, o conservatorismo compassionevole, che nessuno aveva ben capito che cosa volesse dire, era un po' scopiazzato da Bush e dai repubblicani americani, non ha dato nessun tipo di frutto o ha dato frutti molto scarsi. Allora, mettiamo pure che la responsabilità non sia tutta di Cameron, perché si è trovato a che fare con la crisi, ma nel momento in cui ha assunto la responsabilità di governo la crisi c'era ed era già pesante. E quindi in questo momento i conservatori sono drammaticamente indietro in tutte le rilevazioni rispetto ai laburisti. Poi sono alla testa di un governo di coalizione con i liberal democratici. Il punto centrale è che non è che stiano brillando i laburisti per proposte politiche. Cioè Miliband, che è il leader laburista e quindi candidato a futuro primo ministro, non è che sia un genio dell'innovazione. Diciamo che se le condizioni rimangono queste, i laburisti vincono per debolezza dei conservatori più che per forza della propria proposta politica. Beh, mi sembra uno scenario che è possibile vedere un po' anche in tutti gli altri paesi al di qua della Manica, nel senso che in questo momento di difficoltà i partiti del governo hanno certamente maggiori difficoltà a mantenere il consenso rispetto ai partiti dell'opposizione, che poi l'opposizione faccia anche del suo per non avere consensi. Questo capita in molti paesi, non facciamo riferimenti espliciti, restiamo al di là della Manica. Ecco, una delle caratteristiche appunto della Gran Bretagna è un po' questo europeismo che c'è, ma è sempre fino a un certo punto, è diciamo quasi un male necessario essere legati all'Europa, però mantenendo poi appunto rapporti col mondo intero, soprattutto con l'area anglosassone, forse privilegiati con gli Stati Uniti. In futuro resterà questo atteggiamento inglese di adesione all'Europa, ma fino a un certo punto. Io penso di sì, resterà perché ha una sua ragione storica. Possiamo ricordare tre momenti in cui tutto questo si esprime nel corso, diciamo, dell'ultimo mezzo secolo. Una è la famosa teoria dei tre cerchi, che venne elaborata nell'immediato dopoguerra, all'inizio degli anni 50, da Winston Churchill, secondo cui il ruolo centrale della... Non dimentichiamoci che l'Inghilterra aveva perso l'impero, per cui aveva bisogno comunque di conservare un ruolo. Aveva vinto la guerra, ma ha perso l'impero. Sì, vinto la guerra, si trovava senza un soldo, ha perso l'impero. E quindi lui diceva: dobbiamo rimanere in una posizione equidistante tra tre ambiti. I tre ambiti erano l'Europa, il Commonwealth, che era stato appena ricreato, e il rapporto, la famosa relazione speciale con gli Stati Uniti. Dopodiché, nel corso dei decenni successivi, le cose sono andate male, nel senso che Harold Macmillan andò una volta da Winston Churchill e disse: io e te dobbiamo fare grande l'Europa. In realtà i francesi misero il veto all'ingresso degli inglesi. Non dimentichiamoci però, gli inglesi all'inizio degli anni 70, nell'unico referendum della loro storia, approvarono a larghissima maggioranza, quasi il 70%, l'adesione all'Europa. Dopodiché è sempre stato un gioco tattico, certo, no? La Thatcher che va a sbattere i pugni sul tavolo, dice: io rivoglio i miei soldi indietro, si fa ridare una parte del bilancio. Blair che pensa ad un'Europa all'inglese, cioè in realtà gli inglesi vorrebbero, diciamo, prendere il posto dei tedeschi all'interno dell'Europa, cioè essere quelli a guidarlo. E in ogni caso fanno un gioco a stop and go con i confronti dell'Europa per cercare di trarne un utile. Certo, questo è un po' lo scenario che probabilmente non avrà dei cambiamenti nei prossimi anni. Manterremo questo rapporto, l'Europa manterrà questo rapporto con la Gran Bretagna, dovrà risolversi i propri problemi da sola, la zona dell'euro, sì, così come la Gran Bretagna, che di problemi economici neanche essa dovrà in fondo affrontarli molto da sola. Sì, credo proprio di sì. Grazie a Roberto Bertinetti di questo excursus. Siamo passati un po' dalla letteratura inglese. Ricordiamo che Roberto Bertinetti ha coordinato e curato il libro Consiglio un aspirante scrittore di Virginia Woolf, alla società inglese attuale, una realtà importante all'interno dell'Europa, una grande potenza economico e finanziaria, appunto la Gran Bretagna, una grande realtà la città di Londra, è anche in fondo una grande ambizione per molti giovani poter cercare di conoscere meglio questa realtà, che è anche un'occasione di studio e di lavoro per moltissimi italiani. Quindi grazie a Roberto Bertinetti di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Luca Cremonese in redazione, e così come ringrazio voi che ci avete seguito. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica.